Buon pomeriggio a Silvia Santachiara di About Bologna, ben tornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti. Allora, siamo qui per parlare di About Stories, tre giovedì creativi a Porta Pratello. In cosa consiste questa rassegna di eventi, Silvia? Allora, About Stories è la rassegna che abbiamo organizzato noi di About Bologna, che siamo un magazine online di cultura urban a Bologna, ma anche associazione di promozione sociale, e Porta Pratello, che invece uno spazio, ma anche e soprattutto un progetto di cultura e solidarietà che è nato da Arci Bologna, Caritas Bologna e Cooperativa Idee in Movimento. È una rassegna che mette al centro i creativi bolognesi, quindi fotografi, registi, illustratori, attori, DJ, scrittori e videomaker, tutti bolognesi che ci racconteranno in qualche modo la loro storia, non solo attraverso le parole, ma anche attraverso immagini, video, musica, video art e live digital painting. Ogni serata è strutturata in modo diverso, ma il format è lo stesso, quindi è talk, pizza e show. Quindi si comincia per questi tre giovedì, il 16, il 23 e il 30, alle 19, con l'apertura delle porte. Ci sarà questa pizzata di autofinanziamento per la nostra associazione, musica e il bar di Porta Pratello, ovviamente, aperto, e poi ogni sera appunto ha un programma diverso. Ci puoi svelare qualche ospite? Allora, se volete entrare nel merito delle programmazioni, questo giovedì, quindi il 16, è una serata molto al femminile, diciamo. Iniziamo con un talk che si chiama Cinema, Fotografie e Visual Art, tre artiste a confronto. Dialogheremo con Francesca Saracauli, che è una fotografa che segue in particolare la scena rock nazionale, ma soprattutto internazionale, Margherita Ferri, regista e sceneggiatrice, e Serena Zaniboni, performer, cantautrice e visual artist. Quindi dialogheremo con loro per scoprire un pochettino aneddoti, il dietro le quinte del loro lavoro, un pochino da dove sono partite, come si sono affermate nei loro rispettivi campi, che spesso sono a prevalenza maschile. E successivamente alle 21:30 avremo questo show di video art e live digital painting con DJ set di Serena Zaniboni, appunto, che è anche una delle ospiti del talk, che è trasportata dalla musica, disegnerà live utilizzando l'iPad, diciamo, come tela per creare scenografie e installazioni virtuali. E questa è la prima serata. Poi si continua con le prossime, che invece sono, diciamo, hanno un taglio un po' più divertente, perché giovedì 23 ci sarà alle 7 un talk con i The Crews, che sono un progetto bolognese che abbiamo scovato di recente, di produzioni video per il web. Loro fanno video ironici, diciamo comici, attraverso cui però insomma mandano messaggi abbastanza di spessore, diciamo, e proietteremo anche alcuni dei loro corti. E poi ci sarà alle 9:30 invece, alle 21:30, lo show Come nasce una storia, dall'idea al libro al film. Qui lo spettacolo è dello scrittore Massimo Vitali, che ci racconta come è nato il romanzo Se son rose e come poi è diventato un film che si chiama Nel bagno delle donne, di Marco Castaldi e coprodotto da Rai Cinema. Massimo Vitali coinvolgerà il pubblico, insomma, in questo spettacolo, e avremo anche due ospiti speciali: il protagonista del film, Luca Vecchi, che forse come molti sapranno è uno dei fondatori dei The Pills, e anche il regista Marco Castaldi, insomma, che arriveranno da Roma. Prima dello show, questa è una cosa importante da dire, alle 19, per chi vuole, ci sarà la possibilità di vedere il film Nel bagno delle donne al Cinema Europa, in via Pietralata 55, quindi a pochi metri da Porta Pratello, e poi raggiungerci alle 21:30 per assistere allo show. Ultimo ma non ultimo, ci sarà anche un bookshop in collaborazione con la libreria Trame, dove si potrà acquistare il romanzo di Massimo Vitali. Poi si chiude giovedì 30, dalle 7:30 ci sarà lo show di Narrando Bo, che insomma è un progetto molto noto a Bologna. È la prima serata di spettacolo dal vivo, diciamo, interamente dedicata a Bologna. Uno spettacolo di Leonardo Bianconi, Leo Merati e Giulia Quadrelli, che su uno stesso palco raggruppano, diciamo, mescolano linguaggi diversi, dalla poesia alla stand-up comedy, dal teatro di narrazione alla musica, fino, insomma, a video installazioni e performance. Ci sarà un ospite speciale il 30, perché gli attori di Narrando Bo intervisteranno Cristina Portolano, insomma, nota illustratrice e fumettista, e anche per quella serata ci sarà un bookshop in collaborazione con la libreria Trame. Si chiude poi con il DJ set di Green Everywhere. Perfetto Silvia, quindi veramente tante cose da fare tra musica, bookshop, fotografia. A dire tutto, ecco. Ti ho fatto parlare molto, ma ultima domandina, modalità di accesso, qualche info tecnica, bisogna prenotarsi, come funziona? L'ingresso è libero ed è gratuito, ovviamente rispettando quelle che sono i protocolli di prevenzione del Covid, quindi gli accessi saranno regolamentati, però non c'è bisogno di prenotare, non c'è bisogno di fare di avere la tessera ARCI, per cui insomma si può venire liberamente. Ho dimenticato di dire che a partire proprio da questo giovedì sarà visibile anche per poi le successive 3 settimane una mostra fotografica con gli scatti su Bologna che ha realizzato la nostra fotografa di About, Laura Bessega, e quindi insomma ci sarà anche da poter insomma vedere questa mostra che rimane allestita fino alla fine della rassegna. Ho dimenticato un'ultima cosa importantissima ed è questa, cioè importantissima nel senso che il brand con cui abbiamo collaborato è un giovane brand bolognese che si chiama Cosmos e che ci ha realizzato per noi una t-shirt in edizione limitata che sarà anche volendo insomma acquistabile durante le serate. Perfetto Silvia, io ti ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino la vostra rassegna About Stories e ci vediamo tutti a Porta Pratello. Grazie, se volete insomma comunque seguire gli aggiornamenti, i profili Facebook e Instagram sono About Bologna Magazine, insomma ci trovate lì. Grazie mille, ciao. Grazie Silvia, ciao.